Canto ventesimo della Divina Commedia Inferno di Dante Alighieri. Questa registrazione LibriVox è di dominio pubblico. Letto da Pierre. Canto ventesimo. Di nuova pena mi convien far versi e dar materia al ventesimo canto della prima canzone, che de sommersi. Io era già disposto tutto quanto a risguardar nello scoperto fondo che si bagnava d'angoscioso pianto. E vidi gente per lo vallon tondo venir, tacendo e lagrimando al passo che fanno le letane in questo mondo. Come il viso mi scese in lor più basso, mirabilmente apparve esser travolto ciascun dal mento al principio del casso, che dalle reni era tornato il volto, ed indietro venirli convenia, perché il veder dinanzi era lor tolto. Forse, per forza già di parlasia, si travolse così alcun del tutto, ma io non vidi, né credo che sia. Se Dio ti lasci, lettor, prender frutto di tua lezione, or pensa per te stesso, com'io potea tener lo viso asciutto, quando la nostra imagine da presso vidi sì torta che il pianto degli occhi le natiche bagnava per lo fesso. Certo, io piangea appoggiata ad un de rocchi del duro scoglio, sì che la mia scorta mi disse: «Ancor sei tu degli altri sciocchi? Qui vive la pietà quand'è ben morta. Chi è più scellerato di colui che al giudizio divin passion comporta? Drizza la testa, drizza, e vedi a cui s'aperse agli occhi dei teban la terra. Perché gridavan tutti: «Dove rui, Anfiarao? Perché lasci la guerra?» E non restò di ruinare a valle fino a Minos, che ciascheduno afferra. Mira, c'ha fatto petto delle spalle, perché volle veder troppo davante, di rietro guarda e fa ritroso calle. Vedi Tiresia, che mutò sembiante, quando di maschio femmina divenne, cangiandosi le membra tutte quante. E prima poi ribatterle convenne li duo serpenti avvolti con la verga, che riavesse le maschili penne. Aronta è quel ch'al ventre gli s'atterga, che nei monti di Luni, dove ronca lo cararese che di sotto alberga, ebbe tra bianchi marmi la spelonca per sua dimora, onde a guardar le stelle e il mar non gli era la veduta tronca. E quella che ricuopre le mammelle che tu non vedi con le trecce sciolte e ha di là ogni pilosa pelle, manto fu che cercò per terre molte, poscia si pose là dove nacquio, onde un poco mi piace che m'ascolte. Poscia che il padre suo di vita uscio e venne serva la città di Baco, questa gran tempo per lo mondo gio. Suso in Italia bella giace un laco, a pie dell'Alpe, che serra la Magna sovra Tiralli e dà nome Benaco. Per mille fonti credo e più si bagna, tra Garda e Val Camonica, Pennino dell'acqua che nel detto lago stagna. Luogo è nel mezzo là dove il Trentino Pastore e quel di Brescia e il Veronese segnar poria se fesse quel cammino. Siede Peschiera, bello e forte arnese, da fronteggiar bresciani e bergamaschi, ove la riva intorno più discese. Ivi convien che tutto quanto caschi, ciò che in grembo a Benaco star non può, e fassi fiume giù pe verdi paschi. Tosto che l'acqua a correr mette co, Non più Benaco, ma Mincio si chiama, fino a governo, dove cade in po. Non molto ha corso che trova una lama, nella qual si distende e la impaluda, e suol di state talora esser grama. Quindi, passando la vergine cruda, vide terra nel mezzo del pantano, senza cultura ed abitanti nuda. Lì, per fuggire ogni consorzio umano, ristette co suoi servi a far sue arti e visse, e vi lasciò suo corpo vano. Gli uomini, poi che intorno erano sparti, s'accolsero a quel luogo, che era forte per lo pantan ch'avea da tutte parti. Fer la città sovra quell'ossa morte, e per colei che luogo prima elesse, Mantova l'appellar, senz'altra sorte. Già fur le genti sue dentro più spesse, prima che la Mattia da Casalodi da Pinamonte inganno ricevesse. Però t'assenno che se tu mai odi originar la mia terra altrimenti, la verità nulla menzogna frodi. Ed io, maestro, i tuoi ragionamenti mi son sì certi e prendon sì mia fede che gli altri mi sarien carboni spenti. Ma dimmi, della gente che procede, se tu ne vedi alcun degno di nota, che solo a ciò la mia mente risiede. Allor mi disse, quel che dalla gota porge la barba in sulle spalle brune, fu, quando Grecia fu di maschi vota, sì che appena rimaser per le cune, Aure, e il diede il punto con Calcanta in Aulide a tagliar la prima fune. Euripilo ebbe nome, e così il canta l'alta mia tragedia in alcun loco. Ben lo sei tu che la sai tutta quanta. Quell'altro, che ne fianchi è così poco, Michele Scotto fu, che veramente delle magiche frode seppe il giuoco. Vedi Guido Monatti, vedi Asdente, ch'avere atteso al cuoio e dallo spago ora vorrebbe, ma tardi si pente. Vedi le triste, che lasciaron l'ago, la scuola e il fuso e fecersi indovine, fecer malie con erbe e con imago. Ma vieni omai, che già tiene il confine da men due gli emisferi e tocca l'onda sotto Sibiglia Caino e le spine. E già ier notte fu la luna tonda. Ben ti dee ricordar che non ti nocque alcuna volta per la selva fonda. Sì mi parlava ed andavamo in troque. Fine del canto 20.